Voci dal giro. Ultimo respiro prima del gran finale del Giro d'Italia. Credo sia così anche per Ivan Basso, che saluto. Ciao Ivan. Buonasera a tutti. Beh, è giorno di riposo e da domani poi senza respiro fino alla fine. Come l'hai passato oggi il giorno di riposo? Ma riposando proprio, tranne un breve allenamento sui rulli, perché anche oggi la pioggia è stata ci ha accompagnato per tutta la giornata, quindi io e i miei compagni abbiamo deciso di lavorare al coperto, abbiamo fatto un'ora di rulli e poi massaggi e riposo per tutta la giornata. Oggi anche conferenza stampa in cui hai detto Joaquin Rodriguez potrebbe anche vincere questo giro. Certo, è la maglia rosa. In questo momento ha dimostrato di essere l'atleta più forte, l'atleta che ha saputo in tutte le occasioni guadagnare dei secondi preziosi e quindi è normale che in questo momento lui è il favorito, ma è anche altrettanto così chiaro che c'è una settimana davanti con tre tappe di alta montagna e troppo poco si parla di quest'ultimo cronometro di 30 km che a mio parere dopo due tappe di montagna consecutive come venerdì e sabato anche la cronometro di domenica avrà un significato particolare, non la classica passerella. Ivan, ti chiedo ancora questo, ho letto anche un titolo, troppe accuse sulla mia squadra, che cosa volevi dire? No, assolutamente non volevo dire nulla di particolare, quello che io voglio dire è che non siamo così delle scriteriati, cioè quello che noi facciamo lo facciamo condiviso tutti insieme e tutti sappiamo benissimo perché facciamo questa cosa. Mi sembra così che negli ultimi giorni io ogni giorno dovevo giustificare perché io facevo lavorare la squadra in un certo modo. Quello che ho detto è che io non sono un pazzo, ma sono un atleta che condivide con il direttore e con tutti i miei compagni una strategia di corsa che poi noi siamo certi che alla fine della prossima settimana, comunque vadano le cose, ci premierà. Grazie Ivan e buon riposo. Grazie, ciao. Ciao. Ciao. Ringraziamo dunque Ivan Basso, chiudiamo qui questo appuntamento con il Giro d'Italia, ci sentiamo domani mattina dopo GR Sport. Voci dal Giro.